Eccoci, eccoci, pronti, pronti, prontissimi, ci siamo. Buonasera. Prova, prova, prova, prova, ci siamo. Prog 127 bis, ci siamo, grande. Allora, ciao a tutti, ci siamo, un'altra puntata di Reg 69 qua su Radio Wombat. 13.59 AM. Cazzo ridi. Vai, vai. Andiamo avanti, andiamo avanti. Poi ti dico, vai. Ci siamo, ci siamo. Allora, che è? Quarta? Quinta? Quarta? Sesta puntata? Quarta? Io qua che ho scritto. Quarta puntata, quarta caso, puntata. Eri distratto, ti avevo messo alla prova, diceva zio. Pure terza, insieme terza. Va bene, via. E ci siamo, ci siamo. E questa era la fantastica Intensify di Desmond Dekker, che da un po'. E praticamente si parte in apertura con questo album di uscito per la, diciamo, l'etichetta di oggi. Aspetta, metto un altro pezzo di sottofondo nel frattempo, te parla di qualcosa. La Big Shot Records. Grande, grande, grande. Ti è piaciuta la pronuncia? Allora, è nulla, e questo è perfetto perché quest'album di Gea Zio l'ho trovato. E, diciamo, una serie di produzioni a livello di compilation di questa etichetta, e ho trovato questo di Gladdy & Lynn Tate, Glad Sound, uscito nel 1968. E poi in verità ci sono anche altre versioni di questo stesso album, tipo ad esempio uscì anche per la Meriton con proprio Gladstone Anderson e Lynn Tate and the Jets, che però si chiamava Jamaica's Glad Sounds Let's Go Native, e poi sì, è uscito anche per la Meriton e per chi più, andiamo a vedere un po', sì, per la Big Shot e per la Meriton e anche per la Dubstore Records nel 2014, quindi si parla di una ristampa in Giappone. Sappiamo che i giapponesi hanno una fetta di mercato discografico, più che fetta, diciamo quasi la torta intera, più che fetta, però vabbè. Bene, bene, allora, come appena detto prima, anticipato, dice a zio, oggi parleremo di... La Big Shot Records. La Big Shot Records, e vuoi dirci qualcosa della Big Shot, vuoi interagire, dice a zio? Innanzitutto l'etichetta è nata nel 1968 come sottoetichetta della Island Records, solo che fu pochi mesi dopo acquisita dalla Trojan Records, e i suoi anni di fama li ebbe tra 72 e 73 per appunto i pezzi usciti, incisi dal cantante Judge Dredd. Che era sto Judge Dredd, Frog One? Judge Dredd era un personaggio sui Generis o sui Genesis. Battutaccia di scaccio. Va bene, taglia prog 4 quinti, taglia. Taglia tutto, e va bene, va bene. E vabbè, fra poco lo diciamo, no? Vogliamo fare una cosa, dice a zio, magari mandiamo questa ABC Rocksteady. Che ricordiamo era dei Gaylats, e ripresa anche da Roland Alfonso, che dà anche un nuovo, che dà anche il nome a un suo album uscito nel 68. Quindi ci sentiamo questa ABC Rocksteady e dopo diamo un po' un altro po', tiriamo fuori un po' di curiosità, va bene? E vi raccontiamo un po' su Judge Dredd. Vai, dove qui su Radio Wombat. bene bene bene su queste ultime note di ABC Rocksteady, un pezzo stupendo, dolcissimo, intensissimo e ballabilissimo. E yes, I big up, big up, big up. Ok, allora ci siamo, ci siamo, ci siamo. Come la vogliamo cominciare questa puntata, DJ Azio? Vai. Innanzitutto parlando appunto del nostro Judge Dredd, a cui abbiamo accennato prima. Sì, sì, vai. Judge Dredd, vero nome Alexander Minto Hughes, come cazzo si legge Hughes? Ma come vuoi. Non lo so, io no, sulle pronunce non mi sono mai pronunciato, quindi... Appunto, è stato il primo cantante bianco reggae a essere un successo discografico in Giamaica, a sfondare in Giamaica. Addirittura, appunto, dopo il suo successo, fece pure una live in Giamaica, dove tutto il pubblico giamaicano si stupì a vedere sul palco un bianco e non un nero come si aspettavano. No, Prog One? Sì, è vero, sì, sì. Cosa, infatti, tutti pensavano, senti che lentone, sul soul... Succedeva spesso, perdonami, sono un attimo perso ascoltando questo pezzone soul, che succedeva spesso che sulle singole produzioni, sui 7 pollici, come la maggior parte della roba che passiamo noi, c'era solitamente il B-side con questi lentoni, con questo soul giamaicano, e lui, quello che stiamo ascoltando ora, è If I Only Had Time. Ok, piccola parentesi era. Parlavamo del nostro Judge Dredd, vero? Sì, appunto, che... il nostro Judge Dredd, che appunto prima di cominciare la carriera come cantante, è interessante il modo in cui lui è entrato in contatto con la musica giamaicana. Infatti lui da adolescente si è trasferito a Brixton, in una casa abitata anche da gente, da immigrati freschi freschi dei Caraibi, e a Brixton ha cominciato a fare il buttafuori in diversi locali dove veniva suonato il reggae. Infatti in questi contesti ha conosciuto Prince Buster e Derrick Morgan. Prince Buster particolarmente importante appunto per quanto riguarda l'ispirazione al suo primo successo, di cui dopo vi parleremo. Piccola parentesi particolarmente sketch: lui per un periodo è stato anche lottatore di wrestling. È vero. Ma che è si vero, chiamava The Masked Executioner, il boia mascherato. Una foto però non mi è riuscito a trovarla di questo esecutore mascherato. Sì, sì. Comunque un personaggio particolarissimo, no? Che poi, sì, diciamo, perché? Perché qual è il collegamento con l'etichetta che stiamo presentando oggi, ossia la Big Shot, che nulla, che lui appunto ha sfondato con la Big Shot, esatto, nel 72. Esatto, quindi ci sono un sacco, tutta la serie di Big Six, Big Seven, Big Nine. E qui si ripiglia perché appunto, dicevo, c'entrava con Prince Buster. Prince Buster fece un grande successo con la sua Big Five, canzone super volgare, super esplicita, super tutto, insomma. E Judge Dredd qualche anno dopo cavalcò l'onda, appunto nel 72, con Big Six, sì, altra canzone super volgare, piena di doppi sensi, che sfondò, fu un super successo, nonostante le varie censure, limitazioni. Infatti lui è stato premiato dal Guinness World Record come cantante col maggior numero di pezzi censurati esistenti. Grande, grande. Allora, DJ Azio, che ne pensi? Vogliamo aprire un po', facciamo una pausa da, diciamo, da quello che è la presentazione dell'album di apertura, questa compilation di apertura, che ripetiamola ancora, era Gladi and Lintate. Glad Sounds, e andiamo a presentare la prima stampa uscita nel 69 per questa etichetta. Che ne pensi, di già, zio? Presentiamo un fantastico Lester Sterling, sassofonista tra i fondatori degli Scatolites. Esatto. Che qua troviamo in questo, esce con questa stampa, questo singolo Forest Gate Rock. Primo e unico album uscito nel 69 per lui, che è più conosciuto con il pezzo Bangarang, Woman of One, Bangarang, pa-pa-pa-pa. E sta un po' una delle sue hit. E non ci sono restampe di quest'ultimo album, quindi nulla, questo qua. Ricordiamo che lui comunque è anche uno degli unici due membri ancora viventi dei fondatori originali degli Scatolites, grande, insieme grande a Doreen Shafter. Ok, allora. Ho studiato, eh? Grande, infatti, DJ Azio oggi è pronto. Dovrebbe solo correggere qualche pronuncia, qualche nome, però va bene, dai. Piano piano, a fine ciclo, a fine puntate, forse. Va bene, via. Mi lascia Allora, anche l'attestato. Ci ascoltiamo Lester Stelling con Forest Gate Rock. Sono i Raving Rivers con Rock Rock and Cry, che è un gruppo abbastanza sconosciuto. Poi io sono andato a fare un po' di ricerche e nulla, praticamente altre pochissime produzioni loro, singoli loro, uscivano con lo pseudonimo, possiamo dire, The Movers. Ok, bene, bene, bene. Allora, il prossimo pezzo che mandiamo un'altra doppietta di questo 7 pollici uscito con Side A e Side B con i Crystalites. The Crystallites, che ricordiamolo ancora, era praticamente la backing band del produttore Derek Herriott. E ci andiamo a sentire Biafra and Drop Porn. Thank you. ok, e dopo i Crystal Heights viene in automatico mandare Derrick Harriott con Been So Long, e sul side B, come dicevamo prima, c'è questo lentone, questo soul made in Jamaica, Another Lonely Night, Derrick Harriott. Been so long, since I held you tight, been so long, since I kissed you goodnight. You went around and then you put me down. How could you be so cruel after I was so good to you? Been so long, been so long, since I held you tight, held you tight. Been so long, been so long, since I kissed you good night. You went around and then you put me down. How could you be so cruel after I so good to you? Been so long, been so long, since I held you tight, held you tight. Been so long, been so long, since I so slow, lonely, lonely, how I need this warming glow. Foolishly I made you cry, 'cause honey, you never say goodbye. Darling, that's the reason why, that even in a crowd, every night is just another lonely night falling. Tears are falling from my eyes. I'm calling out your name, tears of sigh. How I pray it's for when you left, you took the best of me. I love you, can't you see? Since you've been gone, every night is just another Ok, su questo lentone soul che ci siamo ballati appassionatamente, io e DJ Azio, qui in regia, con la complicità, con l'opplicità di Prog 128. Ok, allora, il prossimo pezzo che presentiamo, Side A, Side B, del grande Eric Monty Morris, vero DJ Azio? Yes, prima voce degli Scatolites, che è considerato anche tra i padri fondatori dello ska, con la sua famosa Empty Dempty, addirittura uscita nel lontano 1961, quindi pensa te quanta acqua è passata sotto. Quanta acqua? Quanta? che uscì con la Blue Beat Records, che era specializzata nelle prime produzioni ska, early ska di quegli anni. E quindi nulla, che vuol dire qualcos'altro di lui o mandiamo questo Side A, Side B? Ma mandiamolo, dai. Sì. Vogliamo dare qualche informazione interessante, già che ci siamo, DJ Azio, però lo facciamo aprendo col sottofondo di Eric. Vai, ricordiamo i nostri social wombat. Allora, sì, i nostri social wombat, c'è il sito, che non esce una sola nota di musica. Ecco, perché certo il father era... Ok, allora rifacciamolo. Bene. Allora, i pezzi che manderemo sono questa fantastica Deportation e He Is Back. E diciamo un po' di notizie utili, no, per i nostri ascoltatori, tipo il sito, esatto. wombat.noblogs.org, twitter.com/radio wombatfi, Facebook, sempre Radio Wombat Firenze, la mail per scriverci, infamarci e chi più ne ha più ne metta, posta wombat@insiberia.net. E poi basta, poi vai. Nulla, no? Dimentichiamo la nostra frequenza. Bravissimo, DJ Azio, svegliissimo. Visto. Ancora imparare a dire reggae, ma la frequenza la sa. Allora dilla te, vai. 13:59 AM, onde grande. Medie, onde mediocri come preferite. Grande. Allora ci andiamo ad ascoltare questo Side A, Side B di Eric Monty Morris. Yes. La fantastica Deportation e He Is Back qui su Radio Wombat. Students began to march, while others started to talk. Some were shouting black power, just waiting for the hour to fight. It's a deportation that caused moderation. It's a deportation that caused moderation. Hoping that this will be the last, and things won't be just like the past. When we have a deportation, it won't bring fuss among the nation. It's a deportation that caused moderation. It's a deportation that caused moderation. That caused moderation. It's a deportation that caused moderation. Hoping that this will be the last, and things won't be just like the past. When we have a deportation, it won't bring fuss among the nation. It's a deportation that caused moderation. Go and tell the people but I am back again. And I'm gonna be the winner, and I'm gonna be the ruler. Teach them but not burn them. Show them sister, show them. Show them brother, show them more love. Great love, sweet love. Go and spread it in the east, my friend, that I am not the least. Go and tell the nation that I am back again. Teach them but not burn them. Show them sister, show them. Show them brother, show them more love. Great love, sweet love. Them but not burn them. Show them sister, show them. Show them brother, show them more love. Great love, sweet love. I show me the show them brother. I show me the show. Okay. Con il grande Eric Monty Morris di fondo, di sottofondo, e siamo arrivati agli eventi della settimana. Ok, allora DJ Azio, che dici? Magari mentre, perché te ne occuperai te, lo sai che è un imperativo che te presenterai. Facciamo 50-50, io mi occupo di quelli che c'è in mano e te quelli sui computer. 50-50 si fa quando andiamo al ristorante a cena. Io lo sai che faccio, DJ Azio, ti metto un'altra serie di strumentali, di pezzoni, da, se tratti sempre dalla famosa compilation che abbiamo, con cui abbiamo aperto questa puntata, e ti metterei una fantastica Starlight del grande Ken Booth e nulla, e te ti dedichi alla presentazione degli eventi, va bene? Ok. Vai. Cominciamo con, non vado in ordine cronologico perché sono molto disordinato, quindi si comincia con sabato 17 novembre, corteo contro il razzismo e repressione, lotta e solidarietà. In solidarietà a tutti gli antifascisti condannati e sotto processo, in sostegno di Mimmo Lucano e Don Biancalani, no alle politiche autoritarie, razziste e sessiste, Firenze non ha paura. Sabato 17 novembre alle ore 15:30, concentramento in piazza Ognissanti, Firenze. Fermiamo il decreto Salvini. No, il decreto bip. Decreto bip. Non si può dire decreto bip. Bip. C'è la censura. Decreto. Ah, decreto bip. Capito? Il decreto. Ora non si possono pronunciare certi nomi, certe robe. Sicché decreto bip. Un decreto oppure un generico decreto. Va bene? Generico. Vai. Invitiamo tutti quanti, insomma. Poi, sempre sabato 17, invece la sera ci sarà. Il sesto compleanno dell'occupazione di Viale Corsica 81 comincerà alle 16:30 con free painting su supporti, per continuare alle 20:30 con una cena gourmet e una gara di torte. Poi alle 21:30 ci sarà un'asta delle opere realizzate il pomeriggio, quindi disegni il pomeriggio che poi finiscono all'asta la sera. Alle 22 concerti con DeLoreanx, come cazzo si legge, Nido di Vespe, Auto Blasting Dog e Against the Grain. Viale Corsica 81. Poi ci spostiamo al CSA Next Emerson, dove, leggo un cazzo, venerdì 16 novembre ci sarà un concerto punk con Obscene Revenge e Nicotina dalle 23 in poi davanti al bar, alla saletta concerti, quella piccinina. E poi, sempre nella stessa serata, ci sarà anche, dove cazzo stava, la serata funky, DJ set, che cazzo era, Exchange Friday, con Serata dedicata al Breaking, Open Cyphers e Vinyl Session Funk Soul Disco Rap. Questo nella sala concerti, se non sbaglio, dalle ore 21. Quindi dalle ore 21 Eventino Funk Soul Disco Rap Breaking, e dopo esatto, poi tutto, e dopo nella saletta piccina davanti al bar sarà serata punk con gli Obscene Revenge e Nicotina e SFC, so fucking confused, un po' come me che a leggere il nome del gruppo, dalle 21:30. Ok, va bene. Sì, questi sono gli eventi che ci siamo arrabattati all'ultimo minuto. Siamo sempre molto organizzati. E con cosa si continua, Frog One? Ma io, guarda, stavo pensando proprio di andare a casa, rismettere. Esagerato, sono ancora 20 minuti qua, È vero, hai ragione. Cartellino, no? Lo teniamo tra 20 minuti. È vero. Ma io direi, sai cosa? Di sentirci un'altra fantastica doppietta di loro, che praticamente sai chi sono, dice a zio, tanto ce l'hai lì, l'ho appena caricato il pezzo. In realtà non me lo ricordo, se ci rinfresca un po' la memoria. Io, te lo dico io, sono le fantastiche Guilets. Le Guilets sono un trio formato da tre donne, Barry Lawson, Mel Clemenson e Judy Mowat, quindi chiaramente, accidenti. Hai visto? Comunque è chiaramente dei tre nomi, quello che spicca, che più si evidenzia è il terzo, quest'ultimo, Judy Mowat, che ha fatto parte delle High Trees, che cantavano nel era praticamente la voce, il coro di Bob Marley and Wailers, che c'erano Rita Marley e Judy Mowat e Marcia Griffiths. E quindi in queste Guilets, in questo trio, ci andiamo a sentire pure anche qua in questo caso il Aside and Beside con Son of Preacher Man e That's How Strong My Love. Son of Preacher Man è famosissima, è stata ripresa poi nel tempo da Aretha Franklin, chi più. Comunque, anche se non conoscete l'originale, è un motivetto che sicuramente non vi sarà nuovo. Sì, no, ma era per fare semplicemente bella figura, mica peraltro, sai. Sì, da Dusty Springfield e nulla. Quindi ora ci ascoltiamo le Guilets. Vai. Lord knows the master. Ok, non ricordavo sinceramente che il B-side era l'ennesimo pezzo soul. Siamo a tre pezzi soul made in Jamaica, quindi oggi puntata anche, diciamo, anche allargati a livello di genere. E in più diamo un'ultima news, un'ultima curiosità scavata, tirata fuori dal vecchio prog 184, che non so se è per noia o li ammazzo o trovo delle curiosità anch'io. Quindi praticamente mi ha fatto notare che Son of a Preacher Man, con la serie infinita di artisti e artiste, che più artiste che artisti che l'hanno coverizzata, l'hanno rifatta, c'è anche un campionamento del pezzo, hanno creato un beat, come si direbbe, credo, nel gergo rapper. E Cypress Hill, con che pezzo, DJ 100 Prog 144? It's From the Bank. Nell'album Black Sunday del 93. È vero, It's From the Bong, non mi sembrava proprio. Cioè, non... No. Ce la conosco la canzone, ma boh. Sei attento, DJ Azio. Sei un ragazzo di strada, però non sei attento. Anche se ti prendi gioco di me. Ok, allora, il prossimo Aside Beside sono i Tenors con Another Scotcher e My Baby. Ooh, it's another scotcher. Ooh, it's another scotcher. Ok, il pezzo che sentite ora, vabbè, a parte la Another Scarcer, abbastanza famosa, conosciuta per chi segue un po' questo genere, e questo che ascoltate ora, che è Smile, sempre dei Tenors, è uscito anche, e questo è perfetto, il collegamento con la prossima puntata, è uscito anche a nome The Fabians, sempre Smile, per la Ballet, quindi così abbiamo spoiler, detto... Spoiler, spoiler. È vero, hai ragione. Ho rovinato il format delle puntate precedenti. Abbiamo, purtroppo, la prossima, sapete già che la prossima puntata parleremo della Ballet Records. Ma non fa niente, via, non fa niente. E risuoneremo chiaramente i Fabians con sempre con Smile, perché a parte che è un pezzo stupendo che ci andiamo ad ascoltare o a riascoltare, vai. Gli ultimi secondi di un pezzo stupendo che amo, è bellissimo, dei Tenors Smile, e DJ Azio mi faceva notare che aveva delle curiosità, che aveva da integrare qualcosa che riguardava loro, vero? Sì, in realtà e te lo lascio dire sulle note di Do the Reggae Dance, sempre dei Tenors, va bene? Yes. In realtà appunto un piccolo evento sketch che ci fu proprio all'inizio della loro carriera. Nel 1967 ebbero la prima audizione con Jackie Me Too, di cui abbiamo già parlato nella nostra prima puntata insieme, vero, o vero. Seconda puntata della serie. Vero. Che era appunto il talent scout dello Studio One di Coxon Dodd. Ebbero la loro prima audizione con Jackie Me Too sul retro di un taxi, con cantando Pressure and Slide, pezzo che nello stesso anno diventò uno dei più grandi successi in Giamaica. Bravo, bravo DJ Azio, sentiamoci quest'altro classicone dei Tenors e poi ci avviamo quasi verso la fine, ci abbiamo anche oggi, ma ancora un po' di minuti. Sei minuti. Sì, però sei minuti, però vediamo un po', magari se forse si sfora proprio 127, no? Qualcosa si sfora, qualche minuto, grande. Thank you. Ok, allora DJ Azio, ci siamo, siamo verso la fine. Ultimi tre minuti. Dico almeno di parlato, poi si andrà dritto con un po' di pezzi. C'è il. Si sente, lo senti? Si sente. Ok. Benissimo, e chi è? Chi stiamo mandando, DJ Azio? Chi stiamo mandando ora? Stiamo mandando Junior Marvin. Leggi il pezzo, lo vedi il mouse che si muove, DJ Azio, anzi il disco più che il mouse, perché stiamo suonando solo dischi. Eccoci, volevo fare un po' di pathos, non si fa un po' di pathos. Un po' di patua, come direbbe. Un po' di patois. Vai DJ Azio, The Hustler. Chi era? Anzi, Questo signore è una cosa interessante che appunto all'inizio della sua carriera fece un'edizione con Lee Perry e Coxon Dodd, edizione che però appunto fu senza successo perché fu bocciato di fatto, no? E fu rifiutato dallo Studio One. Anni più tardi, nel 76, ebbe una nuova occasione davanti a Lee Perry, dove appunto lo conquistò con Police and Thieves, che diventò subito un successo internazionale. Successone che ancora oggi è uno dei suoi, esatto, delle sue hit, forse la sua hit. La sua hit per eccellenza, una di quelle canzoni che motivettolo, magari nessuno sa chi l'ha cantato, ma tutti ce l'hanno, se lo canticchi te lo ricanticchiano tutti quanti. Esatto. E dicevamo un'altra piccolissima curiosità, che in questo 7 pollici a Side by Side che esce appunto con, ricordiamolo sempre, per gli ascoltatori distratti, con la Big Shot Records, esce a nome Junior Marvin. Quindi un po' questi giamaicani scrivevano, storpiavano nomi, cognomi. Uno di loro ha 700 nomi d'arte. Alias, chi più ne metta. Va bene, sentiamo l'altro pezzo, Magic Touch, e poi nulla. Poi magari poi decidiamo, ma siamo quasi ai saluti. Sì. Va bene, dai, sentiamoci Magic Touch, sempre di Junior Marvin. Set my soul on fire, she took me in the land of ecstasy. She gave me that magic. Oh yeah. I can't believe what has happened to me. Must be dreaming. And when she took me in her arms and gave me all her charms, I can't forget. Oh no. soul on fire, she in the land of ecstasy. She gave me that magic, that magic. Can't believe what has happened to me. I must be dreaming. And when she took me in her arms and gave me heart for charms, I can't forget. Every time that I drunk song, I get worried. No. lately she acting funny, so funny. Yes, I came home late last night, sir. Usually I hold me light, sir. Ok, loro sono i Versalites con Worries I Heard, che li riascolteremo, lo diamo questa anticipazione, non dormirete la notte, li riascolteremo nella gente che si rotola in terra e cerchi nel grano, vabbè. E che ritroveremo anche con quando presenteremo la Crab Records, e, in cui infatti io riconoscevo all'inizio i Versalites con la versione della Crab, con Spread Your Bed, bellissima, e What Is I Yard. Questa piccola curiosità. Vogliamo approfittare anche per salutare tutti, dice a zio, cosa ne pensi? Sì, tanto siamo in chiusura, sì. Abbiamo una decina di minuti di DJ set free, voice free, dove non rompiamo i coglioni noi, ce la balliamo intensamente e basta. Salutate a casa, salutate tutti e mi raccomando, e bless and love, auguri a voi famiglia, love and hate can never be friends, che cazzo ne so. Basta, su che radio siamo? L'abbiamo detto tutta la serata. Ora Prog 148, finché te mi interagisci con tipo delle curiosità di Cypress Hill, ridiciamolo, dove siamo? Dillo, dice a zio, vai. Su Radio Wombat. Allora, in chiusura, grazie come sempre a DJ Prog 148 per il suo supporto etico, morale e soprattutto tecnico, artistico, scenografico, coreografico, luci, fotografia e chi più ne ha più ne soni. Benissimo, a martedì prossimo, sempre sulle stesse frequenze, qui a Radio Wombat. Stupid you. But look, man, this is I, Farai. So, you can see it, feel it. This is the son of reggae. I hear talk about this donkey man and this cameraman. But listen, I'm the son of reggae and I'm here to steal. I'm gonna bust them boy with the reggae beat. Let them come down and beg me, Prince of Siam, ease up. So what you know? So, this is the son of reggae. Yes, I'll make them get down on their knees. Of darkness and donkey man, I am the son of the Most High, the son of reggae. Yes, I will make them get down on their knees and suck it to me on their knees, because I am the son of reggae. But oh no, oh, Yeah.